Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben ritrovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto diamo conto della vicenda di cui abbiamo parlato l'altro giorno, quella delle 35 bollette arrivate tutte insieme in un paio di giorni ad una dottoressa. Oggi proprio sui giornali si leggeva delle scuse ufficiali dell'azienda dell'Enel nei confronti di questo medico. Quindi insomma, ancora una volta, grazie al vostro intervento, una vicenda a lieto fine, no? Cosa dici? Sì, allora Mirko, i complimenti li accetto tutti, però li devo anche rivolgere a voi, perché voi, grazie a voi che fate anche questo tipo di lavoro, avete contribuito a dare un tono e un risalto così significativo che probabilmente l'Enel ha voluto anticipare anche quella che è stata la diffida legale che era in viaggio, cercando di risolvere subito la vicenda. Certamente verrà risolta in maniera un po' divertente, perché ormai la dottoressa dovrà aspettarsi nei prossimi giorni 35 stoni di 35 bollette, per cui ne avrà ancora un bel po' da fare. Speriamo abbia una conclusione positiva anche la vicenda invece di cui parliamo oggi. Una donna che è rimasta addirittura ustionata per la reazione chimica di un detergente che aveva utilizzato per sgorgare il lavandino. Quindi in questo caso la donna si è rivolta a voi per chiedere cosa? Allora, innanzitutto la signora, dobbiamo anche dire che ha avuto una prognosi di un mese e mezzo in conseguenza a una reazione chimica di cui è rimasta vittima per effetto di un prodotto che ha utilizzato per sgorgare un lavandino su consiglio di un idraulico, e di cui, come detto, ha pensato di rivolgersi all'Adico, perché i danni che ha subito sono insomma sostanziali, ma soprattutto anche perché in occasione di questo incidente vogliamo porre di nuovo l'attenzione su quelli che sono anche le scelte di certi prodotti rispetto ad altri, perché abbiamo sempre detto che oltre all'etichetta, che magari in questo caso poi andremo anche magari a contestare o a fare due parole, ma c'è anche da essere un po' sospettosi a fronte di certi prezzi. E poi quando si spende poco per certi prodotti, certamente le conseguenze possono essere anche di questo genere. La signora aveva i guanti di gomma, come ovviamente da saggia indicazione bisogna sempre usare con questi prodotti, però i guanti non sono serviti a nulla praticamente. I guanti non sono serviti a nulla, e gli effetti poi sono stati anche più ampi rispetto alle braccia, perché addirittura ha coinvolto un po' il corpo in genere. Però è da dire come la signora ha subito una reazione del tutto inaspettata, senza poi capire cosa ha potuto realmente determinare questo genere di effetti, in quanto comunque non era la prima volta che utilizzava prodotti, se non che questa volta aveva semplicemente cambiato marca rispetto a quelle più note. Però è anche vero che in questa vicenda noi come Adico contestiamo la casa che ha prodotto questo prodotto pericoloso, in quanto da un'analisi che i nostri esperti hanno fatto dell'etichetta risulta che mancano delle importanti diciture che, oltre a dare gli ingredienti, danno anche delle indicazioni sul grado di pericolosità che il prodotto in questo caso ha avuto. Però è da dire, come ripetiamo, a volte ci deve essere una maggior consapevolezza, perché sull'acquisto di certi generi, perché è vero che se questa consapevolezza oggi il consumatore in maniera diciamo buona ce l'ha sui generi alimentari, almeno riguardo alle etichette, la provenienza, cerca se gli allevamenti sono di terra, se comunque la provenienza e la lavorazione sono italiane. Diversamente qui, secondo me, siamo ancora su un mondo tutto da scoprire. L'idraulico che ha consigliato la signora questo prodotto, immagino l'abbia fatto ovviamente in buona fede, ma potrebbe rischiare qualcosa anche lui dal punto di vista così del risarcimento o della colpa? Ma no, perché l'idraulico gli ha consigliato semplicemente di acquistare un prodotto per sturare il lavandino. Poi la signora non ha fatto altro che, sulla base di quelli che erano i prezzi e le offerte, prelevarne uno dallo scaffale. Certamente poi, facendo un'analisi, sicuramente l'idraulico non ha dato una marca ben precisa, ma avete dato dei consigli e la signora nel caso li ha seguiti tutti. Quello che appunto è stato inaspettato nella vicenda è stata appunto la reazione, che sinceramente nessuno, e soprattutto come ripetuto dalle etichette, non si evince, di cui la signora ha una prognosi di un mese e mezzo, ma che ne avrà poi anche per ulteriori mesi al fine di poter assorbire quelli che sono un po' gli effetti della vicenda. Quindi voi all'azienda produttrice di questo prodotto che è risultato molto dannoso alla signora chiederete ovviamente il risarcimento danni anche tramite lo sportello che avete attivato sul sito? Certamente, ci sarà una richiesta danni esistenziale, perché comunque la donna è rimasta vittima di un danno e anche ha dovuto un po', per effetto di questa reazione, subito una specie di shock che ha dovuto farle cambiare un po' anche tutte quelle che sono le sue abitudini che aveva invece consolidato mai per anni e anni. Però soprattutto chiederemo all'azienda di ritirare questo prodotto o di essere chiara, perché appunto episodi di questo genere non si possono più verificare. Noi Carlo, allora ci auguriamo intanto che questa signora guarisca il meglio possibile da questa ustione da prodotto chimico e ci auguriamo che anche questa vicenda col vostro aiuto arrivi a buon fine e ci ritroviamo per altri approfondimenti anche la prossima settimana col mese di agosto. Grazie Carlo e buon proseguimento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.